Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Entro e lo vedo. È lì seduto, sta leggendo qualcosa. Oddio, non mi ricordavo che era più giovane di me di qualche anno. D'altronde, l'ho visto solo una volta e abbiamo scambiato poche parole. Non lo conosco per niente. Di lui so solo nome, cognome e professione. Iniziano a tremarmi le gambe e spero non si accorga che non sono ancora pronta. Sono Cristina. Tra poco compirò 52 anni e vivo a Viareggio, a due passi dal mare. Lascia perdere che è troppo tardi. Lascia stare, guarda, non hai più l'età, ma non hai il fisico, ma non c'hai la testa per farlo. Lascia stare, è troppo tardi, quelle robe lì devi fare quando sei giovane. Quante volte avete sentito dire questa frase? Magari non avevate nemmeno intenzione di intraprendere, cioè non avevate nemmeno realmente intenzione di intraprendere qualcosa, però così chiacchierando tra amici, ma sai che ho pensato di iscrivermi a un corso di lingue, imparare il cinese, ma lascia stare, ma c'hai 50 anni, ma è complicato, non ti rimane in testa, pensavo di provare a cominciare a sciare, oh signor, ma c'hai 45 anni, c'hai problemi alle gambe, le ginocchia, lascia stare, quante volte ve l'hanno detto, quante volte le avete ascoltati, ma soprattutto quante volte non li avete ascoltati, avete cominciato a fare quella roba che volevate fare, anche se per tutti era troppo tardi. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello, che è Voi Siete Qui Radio 24. Oggi parliamo di questo grazie alla storia di Cristina. Questo programma si chiama Voi Siete Qui, è un programma in cui ogni giorno raccontiamo una storia di qualcuno che ha voglia di condividere un pezzo della sua vita con noi. Quello che chiediamo noi è sempre un episodio di una pagina, non di più, un racconto che racconti qualcosa di voi. Lo spedite a Voi Siete Qui @radio24.it e noi con il tempo dovuto siamo un po' indietro a leggere rispetto ai tempi, per cui credo adesso abbiamo letto fino a quando, Tiziano? Fino a maggio? Forse giugno. Abbiamo iniziato adesso a leggere i racconti che sono arrivati quest'estate, perché sono molti, ma vi assicuriamo e vi promettiamo che li leggiamo tutti uno a uno e li scegliamo secondo una legge decisionale che non stiamo a spiegarvi. A un certo punto li scegliamo. È capitato così a Cristina, che ha raccontato la storia diciamo della sua prima volta fuori età. Lasciamola così e capirete meglio più avanti. 349-238-6666. Vi faccio qualche esempio. Hanno scritto sul profilo del programma, sul profilo Facebook, Roberto, ho fatto un tatuaggio a 40 anni, tra 18 e 20 anni lì al laboratorio, immagino. Poi l'ho ripetuto perché non si impara mai troppe volte. Lucia, a 50 anni mi sono regalata la prima lezione di trapezio a New York. Beh, il trapezio inteso trapezio circense proprio, il trapezio sarà quello, no? A New York però. Mica al Circo Togni. Rossella, sci a 35 anni, tango a 40, ricostruire la mia vita sentimentale a 41. Mazza, Rossella, tu eri veramente fuori tempo massimo per tutto, invece sei nata dritta. Manuel, a 38 anni, quando tutti mi dicevano che era tardi, ho imparato il volo acrobatico. Il volo acrobatico? Ma con aerei? Forse è il volo. No, quello lì è il volo a vela, non c'entra. Non è nemmeno il paracadutismo. Niente, nessuno che ne sa, no, di là dal vetro. La corte è proprio zero. Poi ma va avanti, Manuel. A 41 anni, dopo 11 anni da professore universitario, l'espatrio. A 42 anni la prima maratona. A 43 lascio il lavoro da ingegnere all'estero per fare il pilota di linea. A 48 anni inizio a fare vela. Ora, quando a cena dico ho un nuovo progetto, i miei amici non sono più spaventati. Ecco, dico, non a livello di Manuel, se però avete fatto qualcosa che sembrava fuori tempo massimo. 349-238-6666. Vi ricordo appunto che c'è un profilo Facebook e c'è anche un profilo Twitter su cui in pratica Margherita, che è la donna che ormai gestisce Twitter, come forse possiamo dire che Margherita è la social media manager, si dice così, no? È la social media manager più preparata che ci sia, quantomeno in redazione di là, possiamo dirlo. Ma gestisce anche Twitter di qualche altro programma? No, solo il nostro. Ma perché gli altri non hanno profilo Twitter, non ce l'hanno, gli altri non ce l'hanno. Il nostro profilo è Voi Siete Qui Radio 24, Voi Siete Qui R24, vedi? Faccio una menata sui social media e poi manco mi ricordo come si chiama il profilo Twitter. Voi Siete Qui R24. Ci carichiamo le canzoni che mandiamo in onda, ci carichiamo alcuni pezzi dei racconti, delle foto anche, ci carichiamo tutto. qualsiasi roba. Vabbè, se avete voglia di seguire il profilo Twitter è lì, se no, amen, non è un problema. 349-238-6666. Giulia, mancano 12 giorni al mio secondo sì. 57 anni, un figlio di 36, una nipotina di 5 e un altro in arrivo. Com'è bella la vita. Giulia, effettivamente, vista dalla tua angolazione, lo sembra davvero. È arrivato però il momento di raccontare un'altra storia, che è la storia di Cristina, che parte andando in una direzione e poi ne prende un'altra. Febbraio 2006. È mattina presto. Mi alzo di soprassalto e guardo la sveglia. Ho paura che non abbia suonato, che sia tardissimo. Anzi, ho paura che sia talmente tardi che oramai non valga nemmeno più la pena affrettarsi. Ma no, meno male. Sono solo le 5 e io ho programmato di alzarmi alle 6:30. Poi farò colazione con calma. Sceglierò con cura un vestito adatto per l'occasione. Poi la piega dei capelli. Anzi no, quelli li ho fatti ieri dal parrucchiere. Mi truccherò in modo semplice, come sempre, d'altronde. Però forse ci starò un po' più attenta del solito. Vabbè, sono le 5 e manca un'ora e mezza alla sveglia, ma so che non dormirò più per l'emozione. Quindi, tanto vale alzarsi. Ecco, magari vado nello studio. No, non è proprio il caso. Non farei altro che agitarmi di più. Vabbè, mi alzo. Che sto a fare a letto? Oggi è il gran giorno. Oggi è la mia prima volta. Certo, non sono più proprio un adolescente e neanche una ragazzina. Sono una donna matura, ma mi batte forte il cuore. Non avevo avvertito nessuno che stavo per fare questa esperienza, perché così, se fosse andata male, nessuno l'avrebbe mai saputo. Invece andò bene, e subito dopo non vedevo l'ora di dirlo a tutti, tanto ero soddisfatta di me stessa. E in un certo senso anche felice, perché mi ero tolta un peso. Se penso a cosa mi aspetta, ho un respiro affannato e mi gira un po' la testa. Ma è normale, credo. E dire che sono abbastanza preparata all'evento. Sì, mi sono proprio preparata. Ho letto tutto sull'argomento e ho fatto anche ricerche per conto mio. D'altronde, senza nessuno che ti spiega le cose per filo e per segno come si fa, ci si arrangia in qualche modo. Ecco, sono pronta per uscire. Naturalmente mi sono misurata un sacco di abiti. Pantalone cardigan, no, meglio gonna e giacca. No, meglio un abito intero con tacco alto. No, anzi, vada per i pantaloni, sto più comoda. Esco di casa, mi dirigo alla stazione, prendo il treno e in 20 minuti sarò arrivata. Il treno è stracolmo di studenti e non si trova da sedere in nessuna maniera. Arriviamo, scendo dal treno e mi avvio verso la mia destinazione. Il portone è aperto, chiedo indicazione al portiere e lui mi dice di salire. Non ho mai pensato di tirarmi indietro, però il fatto che questa persona fosse più giovane di me, da una parte mi metteva in una posizione di forza, ma nello stesso tempo sottolineava anche gli anni persi. Poi la cosa si è ovviamente ripetuta per ben 12 volte e l'ultima volta, esattamente il 28 maggio di quest'anno, mi sono trovata davanti a un ragazzo che poteva essere tranquillamente mio figlio, ma a questo punto la cosa mi faceva solo sorridere. Entro e lo vedo. È lì seduto, sta leggendo qualcosa. Oddio, non mi ricordavo che era più giovane di me di qualche anno. D'altronde l'ho visto solo una volta e abbiamo scambiato poche parole. Non lo conosco per niente, di lui so solo cognome, nome e professione. Iniziano a tremarmi le gambe e spero non si accorga che non sono ancora pronta. Ecco, penso che forse sono ancora in tempo a scappare e tornarmene a casa. Mi manca il respiro, il cuore mi pulsa forte nelle orecchie. Mi chiedo perché mi sono decisa così tardi nella vita. Mi dico che questa cosa andava fatta quando avevo l'età giusta per farla. Ma ora forse no. E poi con uno più giovane, dai. Ma non faccio in tempo a pensare ad altro. Lui alza la testa, mi guarda e mi chiama. Ecco, in un attimo tutto il mondo esterno scompare. Siamo soli, io e lui. Deglutisco e gli vado incontro con un sorriso. Con il cuore in gola ma l'anima leggera, vado verso il professore di diritto pubblico per sostenere il mio primo esame universitario, all'età di 45 anni. La facoltà è Scienze Politiche di Pisa, il corso di laurea Relazioni Internazionali. Inside, outside, upside down. Everything is turning around. Backward, forward, which is right. And I just sit there Insomma, fino quasi alla fine del racconto io avevo veramente pensato che la prima volta a cui si riferiva Cristina fosse quella prima volta. Ed effettivamente sembrava una situazione piuttosto strana. Però a pensarci bene, quella che ha descritto forse lo è ancora di più. Cioè, decidere di darsi una seconda e poi magari anche una terza o una quarta possibilità credo sia un piacere e un dovere che molti si negano. Cioè, è chiaro che per certe cose è complicato e che, per esempio, per fare il bambino prodigio devi essere un bambino. Ma per moltissime altre cose in fondo non è mai troppo tardi. È inutile accanirsi su se stessi con rimorsi per non avere fatto le cose al tempo opportuno. Oltretutto, nessuno sa esattamente se esiste davvero un tempo opportuno. E deve essere una bella sensazione cominciare qualcosa quando tutti gli altri intorno ti dicono che sei troppo vecchio per farlo. E ancora meglio deve essere quando ci riesci fino in fondo. Perché ognuno sa dentro di sé che cosa è giusto per lui e cosa no. E non deve rendere conto a nessuno. La storia di Cristina mi ha fatto venire in mente quella di un tale, un tizio, che qualcuno mi raccontò qualche anno fa. Si chiama Paul Ascott. Paul Ascott è un signore canadese che alla bella età di 30 anni ha deciso di imparare a sciare. E vivendo a Blue Mountain, che è una zona di neve e di piste, era strano che non sapesse farlo, che non l'avesse fatto prima. Semplicemente lui diceva che non aveva mai avuto voglia. Quando ha cominciato, però, gli è piaciuto moltissimo e ha deciso che voleva sciare quanto più possibile. Quindi lezioni tutti i fine settimana, tantissima pratica, grande passione, apriva gli impianti la mattina ed era l'ultimo a scendere alla sera. E poi Paul aveva un talento, era una persona sportiva, giocava benissimo a hockey, quindi non sorprende che fosse coordinato e pronto fisicamente. Quello che però nessuno si aspettava è che nel giro di un paio d'anni sciasse talmente bene da decidere di entrare a far parte di una squadra agonistica. Una squadra in cui l'età media era 23-24 anni e nessuno dei ragazzi aveva cominciato a sciare dopo la prima elementare. Dopo altri due anni, all'età di 34, Paul Ascott partecipò ai campionati zonali di slalom gigante. Sì, tra atleti di seconda fascia, ma un gradino sotto gli sciatori professionisti. E vinse. La notizia non fu la sua vittoria. La notizia fu il fatto che quella vittoria era arrivata a quell'età e così presto rispetto all'inizio della sua avventura. Sarebbe troppo facile dire che non è mai troppo tardi per niente, perché vorrebbe dire banalizzare e generalizzare, però è vero che anche io ogni tanto provo la sensazione che ci sia, là fuori, qualcosa che ci aspetta e che noi dobbiamo semplicemente andare a prendere, in qualche modo. Qualcosa tipo una vita professionale, o un nuovo amore, dei nuovi amici, o una nuova professione. Forse una nuova lingua da imparare, o uno strumento da cominciare a suonare. È vero che c'è un tempo per ogni cosa, ma quel tempo non ce lo devono dire gli altri. Ecco, magari se avete 80 anni forse è meglio lasciar stare col kitesurf, ma a parte questo, non vale la pena negarsi niente. O almeno io cercherò di fare così. Ai più fortunati può essere già capitato, ma qualcosa di nuovo e bello può essere da qualche parte ad aspettarci. E l'unica cosa da fare è semplicemente uscire e capire quando arriva. Corso di Vela Caprera, deriva a 54 anni, scrive Domenica. 349-238-6666. Claudio da Chiampo? Chiampo, Vicenza. A 46 anni ho iniziato a giocare a briscola. Claudio, però, scusami, io adesso sfido a trovare quello che ti diceva è troppo tardi per imparare a giocare a briscola. Poi, chiamata o semplice? Prima maratona a 54 anni, Massimo è ancora a 54 anni, scrive Daniele. Ho cominciato un corso biennale di massaggiatore professionista. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook è sempre quello. E voi siete qui Radio 24. C'è però una persona che ha fatto nascere tutta questa storia, l'ha fatto con la sua storia, e lei è Cristina. Pronto Cristina? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ma emozionata, questa è un'altra prima volta, senza però l'angoscia di sapere cosa devo mettermi. E tra l'altro nemmeno di cosa dover dire, nel senso che più o meno facciamo una chiacchierata, giusto Cristina? Quindi, senti, la prima domanda è: perché così tardi? Ma perché fondamentalmente per tanti anni ho fatto un lavoro che mi occupava tantissime ore al giorno, non mi lasciava veramente spazio per fare delle cose più impegnative, quindi appena ho potuto ho trovato un lavoro part time, che insomma mi lasciava del tempo e quindi mi sono buttata. Senti, aspetta che riprendo, tu sei iscritta a scienze politiche, relazioni internazionali. Sì. Che cosa diventa uno dopo che si è laureato in relazioni internazionali? Ma credo perché non è che mi sono posta molto il problema dello sbocco lavorativo, ovviamente, però sì, al di là dell'ovvio sbocco diplomatico, che credo sia molto difficile, ti dà la possibilità, credo, di lavorare in ambito giornalistico, nel terzo settore, in uffici stampa, credo queste cose. Ok, ma senti, ma tu hai idea di qualche compagno? No, perché tu mi dicevi che in realtà non frequentavi l'università, giusto? No. Quindi no. Non hai stretto amicizia con qualche giovane collega universitario? No. Quindi non sai, che so io, che fine ha fatto uno con cui hai fatto il primo esame? No. Assolutamente, no. Non mi ricordo nemmeno le facce, guarda, solo la faccia del professore. Senti, quanti esami hai dato? In totale 12, perché ho fatto una pausa molto lunga, un po' perché le tasse erano veramente molto alte, e dando pochi esami all'anno era diventato, diciamo, un hobby, uno sport un po' costoso. Quindi sono stata ferma quasi 3 anni, poi ho ricominciato. Cioè è stata ferma, e quindi in quel caso cosa fai? Sospendi gli studi, non paghi le tasse, giusto? Non pago le tasse, quindi non posso sostenere esami. Mi sono riscritta dopo il compimento di 50 anni perché c'è uno sgravio nelle tasse molto forte, cioè praticamente si paga solo la prima rata e basta. Ah, ma questo solo all'Università di Pisa o in tutta Italia? Non lo so, non te lo so dire. Non lo sai. Senti, qual è la media che hai al suo libretto? Sui 26. Beh, che non è male, insomma. Cioè, qual è stato il voto più basso che hai preso? Il voto più basso è stato 21, mi pare. Ma guarda, lo sai che il voto più basso è stato proprio a scienza politica, che è una contraddizione. Ma sai, ero andata là così per provare, perché c'era una prova scritta con 60 domande a risposta aperte. Ed è andata a quel punto. E quindi te lo sei tenuto, certo. Però, certo. Senti, e invece l'esame di cui parli nel racconto, come è finito? È finito bene, finito molto bene, rispetto, ho preso 28, quindi mi sembrava che fosse, poteva anche essere 38 per me, insomma. Senti, dimmi invece questa cosa del cominciare tardi, no? Su cui poi abbiamo costruito tutta la puntata. C'è stato qualcuno che ti ha detto: ma no, ma lascia stare, ma è complicato, c'è un'età per tutto e bla bla bla, oppure le persone erano entusiaste? Ma qualcuno sì, qualche amico che magari così, qualche amica anche che aveva uno stile di vita come il mio, che non presupponeva di avere altri impegni oltre quelli quotidiani, famiglia, lavoro, eccetera. Però poi in definitiva credo che appoggiassero tutti, insomma, questa mia scelta. Senti, ma quindi tu sei una tipa, diciamo, tardiva in generale, cioè che è una che fa scelte e fa cose più tardi di quanto in teoria non si fanno abitualmente? In generale, tant'è che appunto non mi sono ancora laureata. Ah, ancora non sei laureata? No, perché finché posso detrarre dalla denuncia dei redditi le tasse universitarie. Ma questo è un escamotage che non credo che Barisoni sarebbe tanto d'accordo con questa scelta. Dopo glielo chiedo. Senti, invece, che tempo c'è a Viareggio? È estate, è inverno come qui? È un po' nuvoloso, oggi è un pochino più caldo di ieri, ma insomma la temperatura si era abbassata abbastanza. Torna bello però. Sono bello. Ok, senti Cristina, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per i tuoi... Grazie. Quando è che dai il prossimo esame? Lo dovrei dare ora nel primo appello fuori corso, no, perché non lo sono, degli studenti lavoratori. Ed è? Quindi penso ottobre-novembre. Ah, e di che esame è? Diritto internazionale. In bocca al lupo. Grazie Matteo. Ciao, grazie Cristina. Ciao, grazie mille. 64 anni, ho imparato il russo, mi scrivono. che è complicato. Se c'è qualcuno che ha imparato il cinese tardi, vi prego, fatevi vivi. 349-238-6666. È in casa sua, Cristina, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. È probabilmente in cucina o in sala da pranzo. È una bella signora, bionda, ordinata, con una bella piega. Probabilmente è ancora quella che aveva fatto per l'esame. Ha su un maglioncino nero e alle sue spalle c'è un mobile... C'è uno di quei mobili che non saprei definire esattamente. Andate a vedere la foto. Però sono quei mobili che non ci sono nelle case tipo dei trentenni. Ci sono nelle case delle persone che hanno almeno 50 anni, tipo un comò. Ma non è un comò. Vabbè, ma chi se ne frega. La cosa importante è che davanti a sé ha una torta per festeggiare quello che sembra dalle candeline il suo 30° compleanno e invece è il voto che aveva preso un esame. E lo dico non perché non sembri trentenne, Cristina, ma semplicemente perché Margherita Ina me l'aveva suggerito. 349-238-6666. Si parla di tutte quelle cose per cui... Ma no, lascia stare, guarda. Ma lascia stare che sei anziano. Queste cose qua bisogna farle a 20 anni. Ma sei troppo vecchio, non c'è il fisico, non c'è la mente. Ecco, invece voi... dritti. E allora vi leggo alcuni dei casi. Ciao Matteo, all'alba dei 43 anni mi sono comprata la moto, una fantastica BMW F800R. Ciao Monica. E qui c'è la doppia sorpresa, che è l'età, e anche se 43 anni in realtà non sono così tanti, e il fatto che sia una donna, per quanto ci siano centauri femmine, comunque fa sempre stupore quando si toglie il casco e sotto c'è magari una chioma di capelli lunghi. Sono Graziella, quasi 67enne, a breve farò il mio primo lancio col paracadute. Ieri è andato e domani domani pare non arrivare. Non so se è un motto questo. Comunque, 67 anni, primo lancio col paracadute. Quindi se volete buttarvi ce n'è ancora. Ho iniziato a fare esibizioni di salsa con i miei maestri a 38 anni. Elena, sempre presente da Livorno. E poi ancora, a 44 anni ho iniziato a correre con i kart da campione. Da competizione, perdonatemi. A 47 anni ho vinto il titolo di categoria. Tra l'altro, chissà com'è finita la storia. Ricordate, vero, il campioncino di go-kart? Ho visto che il suo babbo ha scritto sul profilo Facebook. Se ci stai ascoltando, Matteo si chiamava il ragazzino, non mi ricordo. Però mi ricordo che aveva 10 anni. La storia era che un ragazzino di 10 anni, che era tipo un Schumacher in miniatura, forse meno di 10 anni, che corre sui go-kart. Vabbè, se ci sta ascoltando il babbo, facci sapere come va tuo figlio, se ha vinto qualcosa, se prosegue la sua carriera. Ciao Matteo. Paolo, 40 anni, bel ruolo in banca. Lo dice lui, bel ruolo in banca. A novembre parto con un corso per cuochi professionali. 600 ore di corso. 8 mesi di delirio. Non so come farò, ma sono felicissimo. Un abbraccio. E poi ancora Marco, 36 anni. Settimana scorsa ho imparato ad andare in bici. A 36 anni. Questa non è male, eh? Com'è che non hai avuto qualcuno, un fratello, un amico, un cugino, uno zio, un genitore che ti ha preso e ti ha portato in bici? Marco, me lo spieghi per piacere. Cioè, ma semplicemente perché è la cosa più comoda che puoi usare quando c'hai 16 anni e non ti comprano il ciao. Cioè, ciao, buonanotte. Ciao te lo compravano negli anni 80. Adesso non ti comprano uno scooter qualunque. 349-238-6666. Allora, io so che vi ho già asciugato parecchio con questo libro. Devo averlo letto almeno un'altra volta l'anno scorso. Lo so. Però quando ritorna, quando facciamo riunione, io dico sempre: leggiamo un pezzo da Open di Agassi. Bonini mi guarda come dire: vabbè, facciamoglielo leggere. Margherita se l'appunta. Perché la storia di Andrea Agassi, che è una storia abbastanza interessante e che è raccontata in questa autobiografia, anche se mi piace sottolineare non è stata scritta da lui, in collaborazione con uno scrittore molto bravo che ha scritto questo libro fantastico che si chiama Open ed è la sua storia. Agassi è un fenomeno da ragazzino, diventa numero uno al mondo all'età in cui più o meno si diventa numero uno al mondo, attorno ai 20, 25, qualcosa del genere, non ricordo bene, e poi ha un crollo verticale per cui depressione e arriva a 141° al mondo. Da lì c'è un momento in cui intorno a lui gli dicono: vabbè, basta, sei sfatto, non c'hai più voglia, c'ha problemi fisici. E lui invece lentamente riprende, poi la sua vita cambia, si sposa, lascia Brooke Shields, si sposa con Steffi Graf, eccetera eccetera, e arriva esattamente a quell'età in cui tutti gli dicono: senti, guarda, lascia stare. Ha tipo 33-34 anni, cioè, per farvi capire, Roger Federer, Leroy, ha 31 anni. Forse quest'anno 32, più o meno. Lui a 33 anni o a 34 ricomincia a fare grandi tornei, fino a che arriva a Roland Garros. Il Roland Garros è una sorta di ossessione per Andrea Agassi e quando arriva tanto così da vincere, la racconta così. Ho 2 match point. Devo vincere questa cosa subito. Altrimenti dovrò servire per il match. E non voglio farlo. Se non vinco subito, forse non vincerò affatto. Se non vinco adesso, dovrò pensare a Roland Garros da vecchio, sulla mia sedia a dondolo, borbottando di Medvedev con un plaid sulle gambe. Sono già 10 anni che questo torneo mi ossessiona. Non sopporto l'idea che continui a ossessionarmi per i prossimi 80. Dopo tutto il lavoro, il sudore, dopo questo improbabile ritorno e questo torneo miracoloso, se non vinco questa cosa subito, non sarò mai più felice. Davvero felice. L'inizio è il dritto di Medvedev. Entriamo in campo. Intendo giocare tutto sul suo dritto. E lui lo sa. Al primo punto è teso, incerto sul lungolinea, e mette la palla in rete. Improvvisamente ritrovo il servizio. Dal nulla mi esce una battuta grandiosa che lui non può controllare. Gioca un dritto stanco che vola lungo. Metto la prima successiva, ancora migliore, e lui tira un dritto in rete. È il punto per il titolo. Metà del pubblico grida il mio nome, l'altra metà grida shh. Metto un'altra prima sfrigolante, e quando Medvedev si sposta di lato e rotea il braccio con il gomito piegato, io sono il secondo a sapere che ho vinto Roland Garros. Il primo è il mio allenatore. Medvedev è il terzo. La palla atterra ben oltre la riga di fondo e vederla cadere è una delle gioie più grandi della mia vita. Alzo le braccia. La mia racchetta finisce a terra. Sto singhiozzando. Mi strofino la testa. Sono terrorizzato da quanto è bello. Vincere non dovrebbe essere così bello. Non dovrebbe mai importare così tanto. Ma è così e non posso farci niente. Ho 64 anni, sto per iniziare il terzo anno di violino, Mari. Ciao, Marco, quarantenne, da 3 anni guido Ducati senza avere mai guidato una moto da ragazzo. Tra parentesi, mia madre non lo sa. Ecco, allora non dirglielo. Ho 36 anni e sabato mi tatuerò il nome di mio figlio nato quest'anno, Cosimo. Cosimo, non lo fare. Sei ancora in tempo. Guarda, fai una cosa. Scrivitelo con un abiro. Tu comincia a scrivertelo con un abiro, così vedi come sta. E poi magari quando si scolora l'abiro, che comunque con un paio di docce, ma anche con una doccia se strofini un po' viene via, magari ti fai un'idea. Non diventare come un materazzi qualunque, aspetta un secondo a tatuarti sto nome, oppure, non so, mettitelo su un bigliottino, attaccatelo con lo scotch. Cosimo, guarda che mi sono preso a cuore sta roba di Cosimo, 36 anni, come si chiama tuo figlio Cosimo? Faccelo sapere, metti che è lungo, metti che si chiama tipo Leonardo, dove ci sta, sull'avambraccio, se è tipo Edo è corto, ma anche Edo. Cosimo, pensaci, a 58 anni ho fatto un corso di scrittura creativa, a 62 partecipo a un concorso letterario a Milano e lo vinco, e poi ancora a 50 anni mi sono regalato un figlio, la cosa più grandiosa della mia vita, e insomma, e ce n'è, debutto teatrale a 46 anni, ora non vorrei più scendere dal palcoscenico, Nives, più o meno succede così. Come vi raccontavo l'altri giorni, stiamo cercando di comporre un dizionario che è caratterizzato dalla parola che caratterizza, ho ripetuto 2 volte la stessa parola, la puntata del giorno. C'è stato un po' di dibattito, se avete voglia partecipate anche voi, 349-238-6666, alla fine della puntata, e mi suggerite secondo voi qual è la parola che indica la storia di oggi. Noi eravamo incerti tra la prima era, aspetta che lo trovo, scommessa e iniziazione, e abbiamo scelto iniziazione. Iniziazione, sostantivo femminile. L'ammissione nell'ambito di una conoscenza o di una pratica riservata o segreta, per lo più di carattere religioso o più raramente tecnico. Etimo dal latino tardo initiatio iniziationis, derivato di iniziare, data 1700. 45. Grazie a tutti quelli che hanno fatto la puntata di oggi, grazie a Cristina, grazie a Stefano D'Andrea, Pietro Lacorte, Tiziano Bonini e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Cristina e da oggi anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao a tutti, mi chiamo Stefano, sono l'autore del racconto che andrà in onda domani, che parlerà di una lettera che ho avuto la fortuna di poter recapitare dopo 60 anni al mittente dall'altra parte del mondo. La lettera è stata scritta in Australia e doveva arrivare in Italia, ci è arrivata 60 anni dopo grazie a me.